casino come un Harley. Io sono un porco, sono un balordo, faccio rime giù in città, senza pudori né riguardo, sono un punk chitarro. Io sono un porco, a volte storto, faccio rime giù in città, ma di parole mai accordo, aprendo il cuore beve perché sono qua. Mi metto a petto nudo nella musical, non sono beautiful, ma c'ho il physique duro. Che tiene al massimo l'autoradio. Per me il Garelli è un classico, con gli interni in radica su un ritmo cabrio. Mi piace la catenina con la croce d'oro sulla maglietta, stiletto anima nero, la sigaretta sopra l'orecchio, lo tipo come accendino. Se siamo a letto rimango nudo ma col calzino, che fa tanto hardcore, ma non temere perché uso il divoro d'oro. Yeah.